Se avete dunque delle cause giudiziarie per cose di questa vita, stabilite come giudici quelli che nella Chiesa sono i meno stimati. Stabilire come giudici i meno stimati. Molte persone riguardo alla Bibbia pensano si tratti di parola di uomini, i quali si esprimono da parte di Dio piuttosto che la parola di Dio rivolta all'uomo. Se fosse così, allora questi uomini avrebbero grandemente mentito e sarebbero da collocarsi tra i più grandi truffatori dell'umanità. Perché hanno scritto: ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare la giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Deuteronomio 3.16. L'ispirazione è il secondo elemento di una catena straordinaria e importantissima, che parte da Dio e arriva fino a noi. Gli anelli di questa catena sono: 1. La rivelazione, 2. L'ispirazione, 3. La canonicità, 4. La preservazione, 5. La traduzione e 6. L'illuminazione. Proprio perché la Bibbia è parola di Dio, essa è utile, cioè serve ad ogni nostro bisogno. A insegnare, spiega come vivere e parlare, a riprendere, convince il peccatore, a correggere, rimette in giusta posizione, a educare alla giustizia, cioè sviluppare qualità morali, affinché chi ha posto fede in Cristo possa essere completo, cioè atto a soddisfare tutte le richieste, e pronto, cioè disponibile, per ogni opera buona. Io faccio parte di quella generazione di credenti che crede alla piena sufficienza della Scrittura, essa è il messaggio completo di Dio. Questa fede non toglie però un altro aspetto della Bibbia, quello umano. Essa rimane un libro a tutti gli effetti, nel quale troviamo vari generi letterari, come drammatico, saggistico, filosofico, giuridico, proverbiale, discorsivo, epistolare e riguardante visioni apocalittiche. Questo fa la ricchezza della Bibbia. Se così non fosse, chi avrebbe il coraggio di leggere i 66 libri che la compongono? Perciò, se la Bibbia contiene vari generi letterari, il rispetto di questi è una regola fondamentale per interpretare correttamente l'aspetto umano del testo biblico. E uno di questi aspetti umani, in genere poco considerato, è l'ironia, che gli autori biblici usano di tanto in tanto nei loro scritti. È vero che il dizionario definisce ironia anche un umorismo sarcastico e beffardo, ma gli scrittori biblici vi ricorrono in un altro senso, cioè come figura retorica, consistente nel dire il contrario di ciò che si pensa, o come dissimulazione del proprio pensiero, con parole non corrispondenti a esso. Troviamo questa forma di pensiero nelle calorose e accorate lettere dell'Apostolo Paolo rivolte ai credenti. Vediamone alcune, perché come sono molto utili le sue parole, piene di sincero affetto, e le sue testimonianze di vita così, anche le frasi ironiche, hanno il loro valore. Non dobbiamo dimenticare che per avere una visione completa di ogni aspetto umano, si è costretti a vedere le cose da più punti di vista. Perciò, prendendo in esame determinate espressioni di Paolo, si possono cogliere verità insolite. Da quando esistono i cristiani, sussistono anche i loro reciproci problemi di convivenza. Questa realtà ha scandalizzato sia certi increduli sia alcuni credenti in Cristo. Ha scandalizzato increduli, perché questi hanno la convinzione che un cristiano non debba più avere problemi di convivenza. Questo non è assolutamente vero, né potrà mai esserlo. Lo potrebbe se il mondo fosse tutto di un unico colore, ma poiché in questo mondo esistono il bene e il male, e, essendo questi in antagonismo, non si può andare sempre d'accordo. Inoltre, colui che è il cristianesimo in persona, cioè Gesù, non è mai andato d'accordo con tutti, tanto è vero che lo hanno crocifisso, nonostante non avesse mai parlato in modo sbagliato e avesse compiuto solo del bene. Che poi dei credenti si siano scandalizzati dei disaccordi intercorrenti fra alcuni cristiani è una reazione insensata e frutto di una conoscenza scarsa del cristianesimo. Infatti, nella Bibbia non è mai scritto che quando uno diventa figlio di Dio sia automaticamente esente da errore, ma è detto molto chiaramente che La natura corrotta comune a tutti gli uomini resta sempre presente nel credente, il quale non sbaglia solo quando è condotto dallo Spirito di Dio. Perciò è normale che, nelle sue lettere, Paolo, incaricato come pastore d'anime, affronti argomenti in merito ai litigi tra credenti. Proprio in una di queste occasioni ha dovuto fare dell'ironia. Ecco il testo in questione. C. È qualcuno di voi che, quando ha una questione contro un altro, osa farlo giudicare dagli ingiusti invece che dai santi? Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare dei piccoli problemi? Non sapete voi che noi giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita? Se avete dunque delle cause giudiziarie per cose di questa vita, stabilite come giudici quelli che nella Chiesa sono i meno stimati. Dico questo per farvi vergogna. Così non ci è tra voi neppure un savio che nel vostro mezzo sia capace di pronunciare un giudizio tra i suoi fratelli. Il fratello invece chiama in giudizio il fratello, e ciò davanti agli infedeli. E certamente è già un male che abbiate tra di voi delle cause gli uni contro gli altri. Perché non subite piuttosto un torto? Perché non vi lasciate piuttosto defraudare? Voi invece fate torto e defraudate, e questo nei confronti dei fratelli. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. 1 Corinzi 6.1.10. Da tenere presente è il contesto storico dei destinatari della lettera. Paolo scrive a dei credenti che volevano fare i super spirituali, parlavano in lingue, erano pieni di doni, ma evidentemente avevano uno scarsissimo senso pratico delle cose. Per prima cosa i credenti della città di Corinto litigavano fra di loro, cosa mai buona. Per questo motivo Paolo invita i credenti a non chiedere parere a degli increduli in merito alle loro diatribe, ma di rivolgersi ad altri credenti, poiché il mondo stesso e gli angeli saranno giudicati da chi è figlio di Dio. Resta il problema di scegliere tra i credenti chi debba pronunciare un giudizio tra i fratelli. E a questo punto, poiché continuavano a contendere con molta ironia, Paolo continua col dire: «Stabilite come giudici quelli che nella Chiesa sono i meno stimati». Come dire, è possibile che non siate capaci di risolvere le vostre questioni? Volete avere contese per amore delle stesse o volete risolvere i vostri contrasti? Se non volete sciogliere le vostre diatribe, allora stabilite come giudici quelli che nella Chiesa sono i meno stimati. Invece, se volete risolvere le vostre questioni, dice Paolo, scegliete un savio che nel vostro mezzo sia capace di pronunciare un giudizio tra i suoi fratelli. L'ironia di Paolo è espressa con «stabilite come giudici quelli che nella Chiesa sono i meno stimati». Aveva lo scopo di provocare i corinzi a cercare qualcuno in grado di giudicare correttamente. L'esaminare questa ironia di Paolo non è fine a se stessa, ma dovrebbe e deve essere un bellissimo esempio di come si debbano risolvere i seri contrasti all'interno delle comunità cristiane. In genere, le varie problematiche in seno ad una comunità si trasformano in problemi personali e spesso si dimentica la vera causa di divisione. Per questo è saggio trovare dei fratelli al di sopra delle parti, i quali, non essendo condizionati da parole e atteggiamenti, sono in grado di essere più obiettivi. Anche se il credente ha ricevuto lo Spirito Santo, anche se possiede una rara obiettività, quando si tratta di onore e stima, spesso la natura corrotta prende il sopravvento sulla voce dello Spirito. Ho conosciuto più credenti, fra i quali uno in particolare ricordo essere sempre imparziale in tutte le cose, sempre pronto a trovare nelle due parti contrarie spunti di incontro e parole di incoraggiamento. Ma quando venne il suo turno per decidere come comportarsi in una questione che riguardava la propria reputazione, prese una decisione drastica che, solo dopo tanti anni, comprese essere errata. Il fatto è che ci sono decisioni nelle quali è molto difficile tornare indietro. e, anche volendo sempre per salvaguardare la propria reputazione, si preferisce boccheggiare in un'assemblea piuttosto di ritornare sui propri passi. A nulla sono valse le mie parole di incoraggiamento al suddetto fratello. Anche questo aspetto deve servire tra le due parti in questione. Una volta che i fratelli hanno presieduto l'incontro e hanno esaminato la diatriba, la loro decisione in merito deve essere accettata da ambo le parti. Diversamente, se una parte pretende una soluzione a proprio gradimento, non si agirebbe più per fede né credere che la sentenza provenga da un savio. Dato che siamo sempre umani, prima ancora di essere credenti, è molto facile che la sentenza del fratello saggio non soddisfi una parte, o tutte e due le parti, e almeno per questo, se non si se ne accoglie la sentenza per un atto di spiritualità, sarebbe molto saggio. Perché non subite piuttosto un torto? Perché non vi lasciate piuttosto defraudare? Voi invece fate torto e defraudate, questo nei confronti dei fratelli. E, facile parlare un linguaggio biblico, è facile predicare l'amore tra i fratelli, ma quando si tratta di subire dei torti, o addirittura di lasciarsi portare via ciò che ci appartiene, allora vediamo il nostro messaggio con un altro colore. Infatti Sixi è un messaggio ripetuto quasi ogni domenica nelle comunità, è proprio quello concernente la necessità di amarci, ma Sixi è una triste realtà, è quella che i fratelli in Cristo hanno tra loro delle questioni sempre aperte. Perché? Perché abbiamo dell'amore un'idea romantica. L'abbiamo ridotto ad un sentimento, perciò come posso perdonare quando i miei sentimenti sono feriti? Come posso perdonare o lasciar correre chi mi deruba del mio, soprattutto nell'onore e nella stima? In genere i figli di Dio amano quelli che non hanno nulla contro di loro, amano quelli che sono responsabili e coscienziosi. Ma come si può amare uno scellerato? In questi casi non ci è fratello saggio che possa aiutare, perché il vero problema non consiste tanto in una richiesta di perdono da parte dell'altro o nella restituzione, se è possibile, di ciò che ha defraudato, quanto di una relazione verticale con Dio. Sta scritto che se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Ecco la soluzione di fondo alle diatribe tra fratelli, avere una giusta relazione con Dio, che si rivela con un cammino nella luce, il che vuol dire agire per il bene dell'altro. E agire per il bene dell'altro significa non solo fare del bene, ma anche accettare il male conseguente alla ricerca altrui di un proprio vantaggio. Così, se per ironia Paolo ha consigliato di stabilite come giudici quelli che nella Chiesa sono i meno stimati, sempre per la medesima, si potrebbe dire: perché non ti rallegri quando ricevi dei torti, così tu sei sempre più stimolato ad amare il tuo fratello? Ma credo che sia un consiglio vano, perché Gesù ha già dichiarato di rallegrarci quando si soffre a causa del suo nome. Così, la conclusione è: se soffri perché te lo meriti, devi rallegrarti perché Dio ti corregge. Se invece soffri ingiustamente, devi rallegrarti perché ne avrai un premio. Questa visione cristiana ti impedirà di processare il tuo fratello. Le chiese spogliate. Ho spogliato altre chiese, prendendo da loro un sussidio, per poter servire voi. La vita dell'Apostolo Paolo è stata caratterizzata da ogni tipo di difficoltà. Alcuni non lo ritenevano un apostolo di Cristo, altri non erano d'accordo con il suo messaggio, così radicale, in merito alla inutilità della circoncisione ai fini della salvezza. E gli increduli lo vedevano come un sobillatore di folle contro l'impero romano e la religione ebraica. Un uomo si può definire privo di un'esistenza tranquilla. Già questo aspetto di per sé non era molto positivo per alcuni credenti, perché gli altri apostoli e chi era inviato dalle chiese erano persone stimate, onorate, ben volute, mentre il suo incontrare sempre opposizione significava che qualcosa non andava, o era il suo carattere poco amabile, o si stava comportando in un modo non tanto corretto. Nel nostro immaginario, il servitore cristiano ideale non è forse un uomo stimato da tutti ricercato, applaudito quando parla? Perché riesce ad accontentare l'orecchio degli ascoltatori e soddisfa le aspettative di tutti? A questo, ovviamente, si aggiunge la sua capacità di essere in comunione con tutti gli altri servitori di Dio. Perciò, per riconoscenza, per il lavoro ben svolto, chi lavora nel campo di Dio è anche sostenuto economicamente. Va da sé, quindi, che non sarebbe certamente un buon segno se un servitore di Dio si venisse a trovare in ristrettezze economiche. Il denaro è sempre una dimostrazione che tutto procede bene, no? Se sei pagato bene sul lavoro, significa che hai delle capacità particolari. Se fai dei buoni affari, significa che hai trovato il filone d'oro. Così è anche nel campo del regno di Dio. No? Se sai predicare bene, se sai relazionarti bene, tutti hanno il desiderio di sostenerti perché tu possa continuare il tuo compito. Se invece il tuo ministero di predicatore o missionario non è approvato, è normale che tu non sia sostenuto economicamente. Non è forse in questo modo che procedono le cose? Così, anche se i credenti hanno la lingua in cielo, con il loro denaro dimostrano quello che a loro interessa. Non si danno forse delle offerte per un'opera di Dio piuttosto che per un'altra? Esistono forse nel regno di Dio opere che non hanno bisogno economicamente? Non credo. E poiché non si può aiutare tutti coloro che lavorano nel campo di Dio con la nostra offerta, dimostriamo quale opera ci sta veramente a cuore. Questa è la giusta realtà, esistente da quando è iniziata la Chiesa, da quando le persone hanno avuto un ardire proprio di lavorare per Cristo, o hanno avuto meno, come nel caso di Paolo e gli altri apostoli, meno una specifica chiamata a lasciare il lavoro secolare per il sostentamento economico di se stesso e della famiglia. L'apostolo Paolo non faceva eccezione. Se c'era una eccezione era proprio il contrario e lo dimostrava il denaro. I credenti di Corinto, in molte cose, erano da invidiare. Non mancavano di nessun dono. Abbondavano in ogni cosa, come nella fede, nella conoscenza, nella parola, nell'amore verso Paolo. E i suoi collaboratori, 2 Corinzi 8.7, cercavano la sapienza di Dio. Erano quello che diremo oggi carismatici e per questo erano particolarmente attenti ai doni spirituali. Anche in merito al denaro, non erano schivi, seppure Paolo abbia dovuto scrivere molto per spiegare come dovevano comportarsi. Ma Saskista, la stima che nutrivano i credenti di Corinto verso Paolo non era poi così eccellente. A Paolo della loro stima interessava poco, come lui stesso ha dichiarato chiaramente. 1 Corinzi 4.3, ma poiché il messaggio del Vangelo era per lui la cosa più importante per la quale vivere, ha dovuto dire: se uno infatti venisse a voi predicando un altro Gesù che noi non abbiamo predicato, o se voi riceveste un altro spirito che non avete ricevuto, o un altro Evangelo che non avete accettato, ben lo sopportereste. Ora io ritengo di non essere stato in nulla inferiore ai sommi apostoli. E se anche sono rozzo nel parlare, non lo sono però nella conoscenza, anzi lo abbiamo dimostrato a voi in ogni modo e in tutte le cose. O forse io ho commesso peccato abbassando me stesso affinché voi foste innalzati per il fatto che vi ho annunziato l'Evangelo di Dio gratuitamente? Io ho spogliato altre chiese, ricevendo uno stipendio da loro per servire voi. 2 Corinzi 11.48. Ancora una volta, Paolo ha dovuto difendere il suo apostolato, rivolto a dei credenti che lo amavano. Lo amavano, è vero, ma che tipo di amore era? Era un amore di riconoscenza? Certamente, perché erano stati da lui evangelizzati e serviti, ma il tutto finiva lì. Di stima, per quello che aveva fatto e detto, ne avevano poca, sia perché nutrivano dubbi sul suo apostolato, sia per un'altra ragione, che poteva diventare la prova del nove del loro amore, il denaro. Dire che il denaro fa parte del nostro essere è forse esagerato, ma si avvicina comunque molto alla realtà, sia perché meno, come è scritto, meno il denaro viene incontro ad ogni bisogno, Ecclesiaste 10.19, sia perché sappiamo quanta fatica occorre per ottenerlo. Proprio in merito al denaro, Paolo ha dovuto dire: quando ero tra di voi e mi trovavo nel bisogno, non sono stato di aggravio ad alcuno, perché supplirono al mio bisogno i fratelli che vennero dalla Macedonia, e in ogni cosa mi sono guardato dall'esservi di aggravio, e anche per l'avvenire me ne guarderò. 2 Corinzi 11.9.11. E ancora, io ho spogliato altre chiese, ricevendo uno stipendio da loro per servire voi. Dunque, il rapporto come missionario di Paolo con i Corinzi è stato teso a non aggravarli economicamente, ricevendo un sostegno da altre chiese. Se il sostegno economico è una prova d'amore, come mai i Corinzi, che lo amavano, non hanno sostenuto economicamente Paolo? Come mai Paolo ha ricevuto aiuti economici da altre chiese? Nel parlare dell'aiuto economico, Paolo sarcasticamente ha detto di aver spogliato altre chiese. Per quanto si può capire dalle sue lettere, Paolo non ha mai chiesto un aiuto economico, ma, come in tutte le altre cose, si è rimesso nelle mani di Dio. E Dio ha provveduto somministrandogli come, confermò l'Apostolo, ogni cosa abbondantemente. Per abbondantemente non significava che possedesse dei beni, mangiasse e si vestisse come un nababbo, perché ai Corinzi aveva testimoniato che fino ad ora noi soffriamo la fame, la sete e la nudità, siamo schiaffeggiati e non abbiamo alcuna fissa dimora, 1 Corinzi 4:11. Perciò il suo abbondare era il risultato, come disse a suo figlio in fede Timoteo, dell'essere stato divinamente istruito ad essere contento in qualsiasi stato si trovasse. Egli sapeva essere abbassato, come anche vivere nell'abbondanza, in tutto e per tutto. Aveva imparato ad essere sazio e ad aver fame, ad abbondare e a soffrire penuria. Filippesi 4:18-12. Proprio perché era cosciente del valore dei beni, proprio perché tutto aveva un immenso valore, poteva dire di aver spogliato altre chiese. Certo, non le aveva spogliate, cioè non le aveva rese povere o private del minimo necessario, ma ricevendo da loro un aiuto economico, le chiese si erano private del denaro, che potevano usare per quelli veramente poveri e per quelle che erano veramente vedove, 1 Timoteo 5:16. Quanti servitori di Dio oggi hanno questa presa di coscienza? Se hanno deciso o hanno sentito la chiamata a servire Cristo lasciando un lavoro secolare, hanno preso una buona decisione. Ma quanti fra loro vivono all'altezza della vocazione? Una cosa è la decisione, altra è la capacità di onorare la scelta. Vivono e spendono questi servitori del Signore con la consapevolezza di usare del denaro altrui, denaro casomai guadagnato con molta fatica e sudore e donato, quando invece lo si potrebbe usare per le necessità della famiglia? Difficile da dirsi, ma possibile da comprendere, se chi vive per il regno di Dio non si accontenta di ciò che possiede e non cerca in molti diversi modi di avere un tenore di vita simile agli altri. Pochi hanno compreso che l'onore di lavorare nel regno di Dio consiste anche nel vivere al di sotto del comune benessere economico medio delle persone. Se è soffrendo che siamo in grado di comprendere chi soffre, è anche vivendo nelle necessità che si è in grado di comprendere i bisognosi e, di conseguenza, poterli aiutare. L'ironia di Paolo, espressa nell'affermare di aver spogliato delle chiese, ha molto da insegnarci. Ci educa a onorare il denaro che ci è donato per il regno di Dio, spendendolo con timore e usandolo come mezzo per dimostrare il nostro amore, sia nei confronti del nostro prossimo, prima, che poi nei confronti di Dio. Se non si ama il prossimo che si vede, come si può amare Dio che non si vede? Il torto di Paolo. In che cosa siete stati trattati meno bene delle altre chiese se non nel fatto che io stesso non vi sono stato di peso? Perdonatemi questo torto. Dove esiste la verità, esiste anche l'errore. Gesù mandò i 12 discepoli da lui scelti, tra i quali Giuda Iscariota, a predicare il Vangelo, cioè la notizia di quello che Gesù stava facendo, e diede loro il nome di apostoli, cioè inviati. Dopo la sua morte e resurrezione, Gesù scelse il posto di Giuda Iscariota, Saulo da Tarso, al quale fu dato il nome di Paolo, ma ben presto iniziarono ad aggirarsi uomini che si dichiaravano apostoli, predicando un Vangelo non conforme alla verità. Questo in seguito spinse gli evangelisti Matteo, Marco, Luca e Giovanni a descrivere come fossero andate esattamente le cose. Però, vi era un altro problema, come riconoscere un vero apostolo? Una caratteristica fondamentale era quella di aver visto Gesù, ma quante persone avevano visto Gesù? Perciò non era facile riconoscere un vero apostolo di Cristo. Vi era un altro elemento in grado di marcare la distinzione fra un vero e un falso: il suo comportamento. In effetti, con le parole si possono dire tante cose, come fare le più grandi confessioni, ma se l'operato contraddice o non avvalla ciò che si dice, ogni affermazione rimane vana. Perciò anche Paolo ha dovuto rifarsi al suo comportamento nella difesa del proprio mandato apostolico, e lo fece con queste parole: «Sono diventato insensato vantandomi, voi mi ci avete costretto, poiché avrei dovuto essere raccomandato da voi, perché non sono stato per nulla inferiore ai sommi apostoli, benché io non sia niente». Ora, i segni dell'apostolo sono stati messi in opera fra voi con grande pazienza, con segni e prodigi e con potenti operazioni. In che cosa infatti siete stati a meno delle altre chiese, se non in questo che io non vi sono stato d'aggravio? Perdonatemi questo torto. 2 Corinzi 12, 11-13. Paolo era stato costretto a raccontare della sua visione celestiale per confermare di essere un vero apostolo, e ne era in parte dispiaciuto, perché avrebbe voluto essere riconosciuto come tale per i segni, per i prodigi e le potenti operazioni, e per la grande pazienza. Sembra una cosa da poco la pazienza, ma difficilmente si può resistere a degli attacchi come quelli subiti da Paolo se non si è proprio certi della propria chiamata. Perciò, dice Paolo ai Corinzi, con questi segni ho dimostrato di essere apostolo, e che cosa non ho fatto tra voi che non abbia fatto anche altrove? Poi, come riprendendosi, aggiunge: è vero, non ho fatto una cosa, non vi sono stato di peso, non vi ho aggravati con le mie necessità finanziarie. Non solo, Paolo aveva provveduto anche per coloro che erano con lui, come aveva detto e fatto altre volte. 2 Corinzi 11, 9-11, Atti 20.34. Anche in questa sua difesa Paolo ironizza, dicendo il contrario di ciò che pensava, con queste parole: «In che cosa infatti siete stati da meno delle altre chiese, se non in questo che io non vi sono stato d'aggravio? Perdonatemi questo torto». Teniamo presente che al tempo dell'apostolo Paolo l'indigenza, le privazioni erano all'ordine del giorno. Il divario tra i ricchi e i poveri era molto marcato. Perciò chi era ricco lo era davvero e chi era povero altrettanto. In questo modo, quando un credente povero voleva aiutare qualcuno, lo faceva certamente di cuore, ma certamente non senza pagarne un prezzo. Come nel caso dei discepoli di Gesù, quando furono invitati dal loro maestro a sfamare migliaia di persone con pochi pani e pochi pesci. In quell'occasione Gesù compì un evidente miracolo, ma le vie di Dio non sono sempre le stesse. Perciò, spesso nell'aiutare l'altro, occorre molto discernimento. Ho letto di un credente che era in prigione, dove tutti soffrivano la fame. Lui tuttavia sopravvisse perché aveva una barretta di cioccolato che non condivise con altri. Anche se glielo chiesero, ne mangiava, con grande controllo, ogni giorno un pezzettino. Ho letto pure di un altro credente che, trovatosi in prigione, dava un poco di cioccolato anche agli altri. Sopravvisse pure lui. Trovarsi nel bisogno ed essere aiutati non è una situazione facile, anche perché si possono creare problemi al benefattore o ad altri. Mi trovavo, in una giornata afosa d'estate, con una piccola comitiva di donne e bambini a passeggiare in montagna, quando a un tratto ci siamo accorti di avere solo una bottiglia d'acqua. Tutti avevamo il diritto di berne un sorso, ma ho preferito, quando arrivò il mio turno, offrirlo al bambino che mi stava vicino. Un esempio da poco, ma dimostrativo di come a volte una tua necessità soddisfatta possa essere di peso per altri. Così, quando Paolo ironicamente disse di non essere stato di peso ai Corinzi, qualcosa di vero molto probabilmente c'era comunque. La vera ironia è probabilmente nelle sue parole successive: «Perdonatemi questo torto». Sapeva Paolo di non aver fatto nessun torto ai Corinzi, ma poiché tutto quello che faceva non serviva affinché fosse riconosciuto come apostolo, allora il torto di non aggravarli, non certamente commesso dagli altri apostoli falsi, fosse stato almeno utile ad aprire loro gli occhi. Se le cose giuste che aveva fatto potevano essere paragonabili a quelle degli altri falsi apostoli, almeno il suo torto era in grado di approvare il suo apostolato. L'esperienza di Paolo grida nel corso dei secoli. Chi serve Dio deve avere l'ambizione di non essere di peso a nessuno. Chi non ha un lavoro secolare certamente dovrà dipendere molto da altri. Ma anche in questa verità vi sono altri aspetti. La chiamata di Paolo a lavorare nel campo di Dio è indiscutibile, anche se non tutti potevano sapere cosa fosse successo sulla via di Damasco, e Paolo non andava a ripeterlo subito a tutti. Eppure, leggiamo nel libro degli Atti. Dopo queste cose Paolo partì da Atene e venne a Corinto. E, trovato un certo giudeo, di nome Aquila originario del Ponto, venuto di recente dall'Italia insieme a Priscilla, sua moglie, si recò da loro. Or siccome era dello stesso mestiere, andò ad abitare con loro e lavorava. Per professione, infatti, essi erano fabbricanti di tende. Ogni sabato insegnava nella sinagoga e riusciva a persuadere giudei e greci. Quando Sila e Timoteo giunsero dalla Macedonia, Paolo si dedicò completamente alla parola, testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo. Atti 18, 1 a 5. In questa succinta descrizione di Luca vi sono alcuni particolari che dimostrano il torto di Paolo. Arrivato alla città di Corinto, Paolo trova una coppia di credenti con i quali va a abitare e lavora. Perché l'apostolo si era messo a lavorare quando era stato chiamato a predicare il Vangelo di Cristo? Evidentemente era a corto di denaro e, come disse nella sua lunga lettera, non voleva essere di peso a nessuno. Tanto è vero che, appena Silvano e Timoteo giunsero dalla Macedonia con delle donazioni inviate dalle chiese, si dedicò completamente a predicare il messaggio di Cristo. Un esempio esemplare da tenere in considerazione. Paolo non ha chiesto ai credenti che Dio provvedesse finanziariamente e non lo ha mai preteso nelle sue lettere, perché Gesù disse di non essere ansiosi riguardo del mangiare e del vestire, dato che Dio conosce i nostri bisogni. Ma avere fede non significa essere fanatici, perciò, se è vero che Dio provvede tramite un mezzo da noi stabilito, come le offerte, è anche vero che Egli può provvedere il sostentamento anche tramite un altro mezzo, cioè con il lavoro. Dobbiamo credere ciecamente che Dio provveda alle nostre necessità, ma non credere ciecamente che Lui usi un solo mezzo per provvedere. Se Paolo ha fatto un torto di non essere stato di peso agli altri, cerchiamo di non farci un vero torto nell'imbrigliare Dio nei nostri schemi. Quando sei in gravi difficoltà di ogni genere, finanziario o di salute, chiedi a Dio la sapienza necessaria ed Egli te la darà. Lo ha promesso. Però attento, devi essere disposto ad accettare qualsiasi risposta, come Paolo. La fede del cristiano è quella espressa dal profeta Isaia. Chi di voi teme l'Eterno e ascolta la voce del suo servo? Sebbene cammini nelle tenebre, privo di luce, confidi nel nome dell'Eterno e si appoggi al suo Dio. Isaia 50:10. Ne vale la pena. Novembre 2011. Ellero.